Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Non esistono contratti. Non abbiamo nessun diritto riconosciuto. Adesso ci hanno tolto anche la disoccupazione. Io farò la guerra ai giovani. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, dalla fuga alla furia dei cervelli, come ben sintetizza questo video postato su YouTube, realizzato dall'omonimo Libro Network che avete appena ascoltato. Nuovi dati negli ultimi giorni hanno fotografato una situazione ormai insostenibile per i nostri giovani, per i quali l'emigrazione rischia di diventare un'opzione imprescindibile. Oggi vi raccontiamo un caso davvero da manuale, la storia di una professionista ventenne autotraghettatasi in pochi mesi dall'Italia gerontocratica delle corporazioni al mondo sviluppato, dove contano il merito, i risultati, il talento e nient'altro. Un mondo dove non è necessario avere i capelli bianchi per farcela. Le teste fuggono dall'Italia, titolava qualche tempo fa il quotidiano tedesco Die Welt. Il problema è che manco andiamo a cercarle per riportarle qui. Ho ricominciato ad inviare curriculum ricevendo zero risposte. Io spero che questo anno e mezzo passato a Londra possa essere servito a qualcosa. Alice Cofanelli, 27 anni, è un architetto di stanza in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Crolla l'occupazione giovanile. Lo scorso anno gli occupati under 35 in Italia sono diminuiti di oltre 1 milione rispetto al 2008, scendendo a poco più di 6 milioni. Nell'ultimo anno il crollo è stato pari a oltre 200.000. I giovani hanno subito sia il calo dei contratti a termine, sia la drastica diminuzione di quelli indeterminati, ridottisi in 3 anni di oltre 700.000 unità. Solo una giovane donna su 5 è occupata nel mezzogiorno. A bilanciare, ma solo in parte, il forte calo dell'occupazione giovanile c'è l'incremento dell'occupazione tra gli adulti. Dobbiamo creare maggiori opportunità per i giovani in Europa. L'Italia è uno dei paesi in cui la situazione è peggiore, così Laszlo Andor, commissario europeo all'occupazione. In fuga verso la Germania, nel 2011 il saldo netto tra immigrati ed emigrati in terra teutonica è stato estremamente positivo, rivelandosi il più alto dell'ultimo quinquennio. Lo afferma l'Ufficio Federale di Statistica: 169.905 immigrati in più contro i quasi 59.000 del 2010, record dalla Grecia, i cui immigrati sono cresciuti dell'84%, boom di arrivi anche dall'Italia, quarta nell'Eurozona dopo Spagna e Irlanda. I nostri emigranti sono cresciuti di oltre il 22% nel primo semestre 2011, davanti anche ai portoghesi. Per l'Ocse questi incrementi cresceranno ulteriormente nei prossimi anni. E per la società di recruiting Phoenix Gira, citata dal Corriere della Sera, le aziende tedesche sono a caccia di talenti italiani. Le figure più ricercate: ingegneri, specialisti di information technology, medici e infermieri. Ad attenderli salari più alti e contratti stabili, no stage. Secondo un sondaggio di Tesi Online, solo un laureato su 4 sceglie l'Italia per lavorare. Al secondo posto l'Europa col 16%, al terzo il Nord America. Oltre un terzo dei nostri laureati vuole trovare un posto di lavoro il prima possibile. Tra le ambizioni resiste il posto fisso. Il luogo ideale sono le aziende private, ma a patto che si possa crescere professionalmente, fare formazione e ottenere incentivi se meritevoli. Nelle professioni di ingegnere e architetto in Italia è cresciuta molto l'incidenza dei giovani. Gli under 40 rappresentano quasi il 50% degli iscritti, ma dispongono, pensate, solo del 32% del monte reddituale, lo afferma Inarcass. E ora una denuncia: 2 università italiane su 3 non garantiscono un accesso diretto e gratuito ai curriculum vitae dei propri laureati attraverso la pagina web o altri sistemi esterni, condizione fondamentale per favorire l'incontro con le aziende, è quanto emerge da un dossier di ADAPT, il tutto disattendendo la legge 183 del 2010 che obbliga tutte le università a pubblicare e rendere gratuiti i curricula dei neolaureati. La famiglia resta il vero ammortizzatore sociale nella crisi, sostituendosi allo Stato, con conseguenze negative. Il numero di famiglie in condizione di povertà è aumentato, afferma Banca Italia, che lancia l'allarme. A pagare il prezzo più alto sono i giovani. Tra il 2008 e il 2010 la quota di famiglie povere è cresciuta di circa 5 punti tra le famiglie giovani. Nel 2009 ben 480.000 famiglie hanno sostenuto almeno un figlio convivente disoccupato, ma, avverte Via Nazionale, la ricchezza dei genitori si sta riducendo. Sarà presentato giovedì a Milano madeinyang.it, portale creato per promuovere le nuove generazioni del design italiano insieme alle imprese che investono sui giovani designer. Il progetto è dei giovani imprenditori di Assolombarda. Un motivo per restare o tornare. Sempre Milano si prepara ad accogliere il ritorno dall'estero dei cervelli in fuga. Prima dell'estate inaugureremo il nuovo sportello Welcome Talent, un portale virtuale reale in cui i talenti che approderanno nel capoluogo lombardo potranno trovare informazioni, servizi e accompagnamento in città. Ad annunciarlo l'assessore alle politiche per il lavoro Cristina Tajani. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un senior systems engineer alla Boeing, sede di Bristol in Gran Bretagna, scadenza per CV 16 aprile, info su jobs-boeing.com. Un consulente legale per Greenpeace a Bruxelles, scadenza per il sì 20 aprile, info su greenpeace.org. E infine un ricercatore in scienze della Terra, più altre posizioni scientifiche, al Barcelona Supercomputing Center di Barcellona. Scadenza per CV 30 aprile, info su bsc.es. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna per parlare di architettura. Voliamo dunque oltre Manica. Nome: Alice. Cognome: Cofanelli. Età: 27 anni. Città di origine: Jesi. Studi: Facoltà di Architettura Firenze. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Londra. Perché? Perché in Italia non trovavo lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Senior Architectural Designer. Dove? Londra. Tornerai? Spero di sì, vorrei restare. E certo che tu, Alice, dopo un anno e mezzo di lavoro in Italia eri ready to go, per dirla con gli inglesi dei Repubblica. Lo eri dopo aver messo il naso nel settore delle cosiddette libere professioni italiane. Tra poco vedremo anche perché. Prima però vorrei cominciare con una bella citazione che tu stessa hai ricordato nella lettera che ci hai inviato. Non ho mai smesso di inviare curricula in Italia perché, come dice Renzo Piano, dobbiamo partire per fare nuove esperienze e vedere posti diversi, ma prima o poi dobbiamo tornare per lavorare nel nostro paese. Alice, ci credi ancora in questo paese? Credi che sia pronto a cambiare radicalmente e diventare un paese per giovani? Io credo che il fatto di cercare di ritornare in Italia e il fatto di cercare di inviare curriculum qui, già questo è un segno di fiducia verso il mio paese. Un passo indietro, il tuo percorso universitario prende avvio nel 2003, Facoltà di Architettura a Firenze. Perché questa scelta? Quali sono i quali speranze si celavano dietro? Ho sempre avuto la passione della cultura del bello e dell'architettura, da sempre, e ho scelto la Facoltà di Firenze perché credevo e so che comunque sia è una delle migliori. La speranza era quella di poter lasciare un segno nel mio paese e che potesse rappresentare al meglio me stessa e gli ideali. E qui entra in gioco una nota anche forse un po' comica, se solo avessimo ancora voglia di ridere. Qual era il mantra ripetuto dai vostri docenti universitari per incoraggiarvi a laurearvi? Dovevamo laurearci in tempo, 5 anni, il voto era meno importante appunto della durata del corso, così da poter trovare lavoro più facilmente. Purtroppo per alcuni e per molti non è stato così. Infatti tu scrivi a giovanitalenti@radio24.it: dopo un eccellente percorso universitario in corso con una votazione di 105-100 decimi, trovare lavoro in Italia è stato impossibile, ma almeno sei stata soddisfatta della preparazione ricevuta? Sono totalmente soddisfatta della preparazione ricevuta dall'Università di Firenze. Ulteriore conferma di ciò l'ho continuamente confrontandomi con i miei colleghi all'estero che hanno avuto una preparazione all'università, anche loro di architettura, però devo dire la verità, quella che ho ricevuto io non è alquanto paragonabile con la loro. Allora Alice, la tua è veramente una storia da manuale nella nuova emigrazione. Tu inizi a lavorare già durante l'università con uno stage obbligatorio di 300 ore in uno studio di architettura a Jesi. Quanto ti pagavano o non ti pagavano? Non ero pagata, le 300 ore erano prima della laurea e dovevo appunto svolgerle obbligatoriamente. E dopo la laurea, evidentemente soddisfatto della tua capacità professionale, il titolare dello studio ti propone di restare. Ti dice: naturalmente non gratis, qualcosa ti do. Quanto, Alice? L'ho scoperto durante la mia prima busta paga ed erano 5 euro l'ora. 5 euro l'ora per una giovane neolaureata dopo 5 anni in corso. Dovevi pure essere in qualche modo felice, considerato che molti tuoi ex colleghi di corso percepivano 0 euro. Sì, esatto. E alla fine sostieni e passi anche l'esame di Stato, ti viene chiesto di fare delle notule, in sostanza una specie di fatturina, ed è vero che il tuo stipendio arriva persino ad abbassarsi. Sì, all'incirca diventa 4 euro l'ora. In piena valorizzazione, diciamo, dei giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro. E allora, per un attimo, lasciamo perdere l'aspetto meramente economico, anche perché diverse indagini stanno suggerendo che ce n'è un altro, ormai prevalente nella fuga all'estero, ed è la possibilità di poter lavorare bene, soprattutto se giovani, esprimere al massimo le proprie potenzialità. Ci descrivi, Alice, il tuo lavoro in Italia. Ero una semplice, come dicono in Inghilterra, CAD monkey, una scimmia da AutoCAD, nel senso che riportavo in AutoCAD i disegni che faceva l'architetto, e senza poter cambiare nulla e senza poter aggiungere nulla, quindi era molto insoddisfacente e mortificante. Basso, soprattutto. Basso stipendio, zero creatività, alla faccia della valorizzazione dei giovani. Ma dal confronto con i tuoi ex colleghi di studio, hai l'impressione che il mix basso stipendio e lavoro insoddisfacente sia la regola per i giovani architetti in Italia? Beh, giustissimo. diciamo, sento ancora delle persone con cui ho studiato insieme, anche loro l'idea del basso stipendio e comunque sia lavoro mortificante è tuttora reale. E non è così all'estero, lo vedremo tra poco. Vogliamo anche dire quanti curricula hai inviato per trovare un altro lavoro in Italia e quante risposte hai ricevuto? Ho inviato, penso, una cinquantina di curriculum in tutta Italia e non ho ricevuto nessuna risposta, né positiva né negativa. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. La svolta della vita arriva dopo un anno e mezzo di lavoro. Qualche conoscente a Londra ti segnala aziende dove inviare il curriculum. Tra gli altri lo spedisce allo studio Interior Design Casaforma di Londra. Vogliamo dire quanti giorni sono passati tra il secondo colloquio con loro e l'assunzione? Sono passati 3 giorni. Ho fatto il colloquio il lunedì e dopo 3 giorni mi hanno confermata e mi hanno presentato il contratto con una proposta di salario. 3 giorni per passare dall'inferno al paradiso. Di cosa si occupa Casaforma esattamente? Casaforma si occupa di luxury design, soprattutto residenze in tutto il mondo, India, Cina, Svizzera, quindi ci occupiamo di ristrutturazione di interni sopra una certa metratura e sopra un certo budget. A Casaforma entri come interior designer con contratto trimestrale da freelance, poi ti riconfermano per altri 4 mesi e poi ti promuovono con contratto a tempo indeterminato a senior architectural designer. Il lavoro mi è piaciuto subito, confessa giovanitalenti@radio24.it. Vogliamo raccontare quanto rapidamente è cresciuta a Londra la giovane neolaureata che solo pochi mesi prima in Italia copiava in AutoCAD i sacri disegni dell'architetto. A Londra è stato molto facile crescere, il lavoro appunto mi è piaciuto da subito, mi hanno dato molta responsabilità, alcuni progetti da seguire, tra l'altro alcuni in India, e non è stato per niente difficile, ho potuto subito disegnare e prendere decisioni sui progetti che mi hanno dato da seguire come project manager. Sul gruppo Facebook Fuga dei Talenti Fabio scrive: architetto a Londra da quasi un anno, oltre 550 applications inviate senza risultati, consigli? Allora Alice, tu a Londra sei arrivato un po' prima e dura anche lì adesso, cosa suggerisci di fare? Sicuramente anche a Londra ora si comincia a sentire la crisi e i giovani non riescono a trovare facilmente il primo impiego. Quello che suggerisco a Fabio è che se comunque vuole rimanere nell'ambiente londinese è di continuare a cercare, magari cambiando o cercando di dettagliare, di personalizzare il curriculum e portfolio. Da Londra tu hai ripreso a inviare curricula verso l'Italia. Quante risposte ricevute? Ho ricominciato ad inviare curriculum ricevendo 0 risposte, sia appunto positive che negative. Io spero che questo anno e mezzo passato a Londra possa essere servito a qualcosa. Spero che ritornando in Italia possa essere notato dalle persone con cui vorrei lavorare. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Soprattutto nel settore del design l'Italia dovrebbe muoversi come Italia unita, come nazione piuttosto che innanzitutto come singole regioni. Dovrebbe muoversi la nazione Italia per promuovere i loro giovani, i loro designer. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che vista dall'estero in Italia ancora si fa fatica sotto il livello architettonico ad apprezzare, ad inserire edifici nuovi, moderni all'interno di un tessuto comunque sia antico, di impianto antico, e questo per noi è un grandissimo ostacolo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alice Cofanellis, 27 anni, senior architectural designer per Casaforma a Londra. Alice vi giunge nel 2010 dopo una laurea in architettura a Firenze e un'esperienza di lavoro in Italia sottopagata ma soprattutto poco gratificante. Anche per questo, delusa dalle 0 risposte ricevute ai suoi curricula, Alice molla tutto e parte per la Gran Bretagna, dove in pochi giorni viene assunta prima come freelance, in una manciata di mesi sale di grado guidando progetti pure in altri continenti, dando così sfogo a tutta la sua creatività. In Italia vorrebbe tornare, ma nonostante l'esperienza all'estero, le risposte ai suoi curricula restano sempre 0. Ci raggiunge in linea ora Pippo Ciorra, curatore per l'architettura del Museo Maxi di Roma e autore del libro Senza architettura, le ragioni di una crisi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Pippo, quante storie come quella di Alice ti è capitato di ascoltare? L'Italia è un paese per giovani architetti? L'Italia non è un paese per giovani architetti e soprattutto non è un paese per architetti, quindi i giovani hanno ancora più difficoltà. Le storie sono moltissime e sono storie canoniche. Ormai usciti dall'università, gli italiani hanno 2 possibilità. Il sottolavoro, diciamo un lavoro non pagato, sottopagato e frustrante, oppure l'emigrazione. Quindi la storia di Alice è una storia normale ormai. Purtroppo, nei vostri piani futuri al Maxi c'è una mostra focalizzata sui giovani architetti italiani che lavorano all'estero. Quando la inaugurerete? avete e soprattutto perché questa idea? La mostra sarà alla fine dell'estate dell'anno prossimo, nel 2013, e l'idea è quella di dimostrare che gli architetti italiani, che in questi anni sono rimasti molto indietro, un po' indietro rispetto a quello che succede nel resto del mondo, non sono meno bravi, meno creativi, meno intelligenti o meno coraggiosi, ma che messi nelle condizioni giuste all'estero, in cui possono dispiegare il loro lavoro, il loro valore, il loro talento, la loro capacità, sono come più bravi degli altri. Noi vogliamo raccogliere queste storie e raccontarle all'Italia affinché l'Italia ci rifletta un attimo. Speriamo che avvii veramente una riflessione profonda. Però Pippo, c'è un problema di fondo. Perché quando provano a tornare con le competenze, il bagaglio accumulato all'estero, c'è quasi un muro di gomma che li respinge? Questa è una storia che conosco fin troppo bene. Loro sono iperqualificati e abituati ad essere pagati secondo standard che nessuno in Italia si può permettere, o perlomeno se li potrebbero permettere tre o quattro studi. Quindi il problema di reinserirli è che nessuno se li può permettere sostanzialmente, né come libertà d'approccio, no, e abitudine al lavoro indipendente, né come retribuzione, che è la cosa più grave. Nel tuo libro Senza Architettura parli di una immanente sensazione di spreco. L'abbondanza di spazi per l'architettura sui media rende evidente un tessuto di energie nuove e quasi sempre frustrate. Tra loro, appunto, gli studenti e i giovani architetti abituati a viaggiare e lavorare in giro per il mondo. Allora, Pippo, si può ripartire da loro per un nuovo rinascimento, ma soprattutto come? Io penso che si debba ripartire da loro, non a caso al museo anche facciamo dei programmi che ripartono dagli architetti delle generazioni più giovani, come quello che facciamo col MoMA, ma l'importante non è, come dire, semplicemente scoprirli e metterli in evidenza. Bisogna dare loro opportunità di fare cose concrete, anche piccole ma reali, e da quelli ricominciare a costruire da zero un tessuto che è culturale. Alice, hai una domanda per Pippo Ciorra? Chi dovrebbe scommettere oggi sull'architettura? Chi dovrebbe esserne il fruitore naturale e chi investirci? L'architettura italiana è cresciuta per secoli parlando con l'interlocutore pubblico. Oggi purtroppo l'interlocutore pubblico non è un interlocutore privilegiato, perché non ha i soldi, non ha la visione, non ha la condizione, quindi deve imparare a parlare e a rivolgersi a tutti quelli che lavorano per far ripartire il paese, quindi le persone che pensano, gli imprenditori, il privato, che deve imparare a riconoscere nell'architettura un plusvalore reale che porta poi comunque consenso, reddito, presenza e qualità nel territorio. Giovani, poveri e dipendenti, così un recente studio ha dipinto gli architetti della provincia italiana. Allora Pippo, c'è un collo di bottiglia all'ingresso che ostacola i migliori? Ha senso soprattutto avere ancora un ordine, o non è meglio liberalizzare per sparigliare un po' le carte e che vinca il migliore? Io sono radicale in questo, sono favorevolissimo all'abrogazione degli ordini. Ci sono ordini in Italia che lavorano bene, ma sicuramente il collo di bottiglia è mostruoso, e anche quando uno passa il collo di bottiglia dopo trova un mare molto molto difficile da navigare. Credo che liberalizzare, aprire il più possibile, mettere gli architetti, i giovani davanti ai problemi e non davanti a filtri successivi, servirebbe sicuramente ad agitare le acque e a muovere un pochino la situazione. Grazie a Pippo Ciorra. E domanda di diritto per Alice Cofanelli: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Lavorativa all'estero è un'esperienza da fare. Certo è che bisogna sempre partire, secondo me, per poi ritornare per lavorare per il proprio paese. Purtroppo in questo momento nel nostro paese è più facile andarsene che tornare. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi tappa in Australia per parlare di un sito creato dai nostri giovani emigranti per aiutare i nuovi arrivati nella terra delle opportunità. Ne parliamo con Andrea Buonaguidi, creatore di Melbourne.it. Melbourne.it è nato un po' come un'esigenza fra i nuovi arrivati a Melbourne, no? Tutti quei ragazzi che sono arrivati da pochi anni. Quanti giovani gravitano intorno al tuo sito? I ragazzi che adesso già vivono qui a Melbourne siamo sui 900. Ragazzi tutti, diciamo, un po' fra i 20 e i 35-36 anni. Questo è molto interessante, Andrea. Cosa spinge tanti ragazzi giovani italiani a venire fino in Australia? In genere molti hanno amici che sono già venuti, per cui magari tendono un po' anche a seguire. Poi c'è anche da tenere conto che comunque adesso l'Europa è un po', diciamo, messa male, no? Un po' l'Australia, paese con un altissimo tenore di vita, 5 delle migliori città al mondo per qualità di vita sono in Australia, e soprattutto c'è questa possibilità di avere questo working holiday visa che vale un anno, per cui penso che sia un po' la destinazione, un po' dei sogni in questo periodo. C'è un po' un aspetto di fuga dall'Italia? Per quelli che sono i miei dati, io penso che si possa benissimo parlare di una nuova diaspora italiana. Negli ultimi 4 anni sono arrivati, mi sembra, come sui 6.000 italiani. Che profilo hanno questi giovani professionisti? C'è un po' di tutto, dagli super laureati, super qualificati, poi ci sono i professionisti professionisti, ci sono i ragazzi che lavoravano nelle fabbriche, che sono venuti qui, ci sono ragazzi che hanno finito le scuole, ma ci sono anche tante famiglie che hanno lasciato il lavoro e sono venute con dei bambini piccolissimi. E l'Australia che cosa offre loro? Sicurezza, lavoro e se vogliamo anche questa possibilità di ottenere dei risultati solo in base al proprio impegno, ai propri sforzi personali. Ci sono dei settori in particolare dove è più facile trovare occasioni di lavoro? Per l'insegnamento ci sono diversi architetti, parecchi ingegneri, cuochi, ma anche parecchi operai di fabbrica, gente specializzata. Parliamo di Melbourne.it, cosa sì. Trova un visitatore del vostro sito quando si collega? Ci sono un po' tutte le informazioni pratiche su cosa fare dopo che si è arrivati qui, quindi noi ci rivolgiamo a persone che già hanno deciso di venire, sono appena atterrate con l'aereo e quindi hanno bisogno di sapere cosa si fa dal momento che siamo qui. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.melbourne.it.com. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Resta anche attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13:30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.